Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della nostra industria, o meglio della nostra produzione industriale, perché come già vi hanno ricordato alcuni GR di Radio 24, oggi c'è un dato a luglio, ma il dato interessante è non tanto rispetto a giugno, c'è un leggero aumento, ma rispetto a luglio di un anno prima. Ora, il dato è molto importante perché segnala un netto aumento della produzione industriale, il 4,4%, soprattutto sulla componente dei cosiddetti beni strumentali, più 6%, e vanno a un livello anche superiore al 2010. Bene anche i beni di consumo, più 4,1%, intermedi più 3,5%, energie più 3,3%. Tra i settori segnalo la meccanica industriale, più 8% rispetto all'anno prima, l'alimentare più 7%, più piatto invece l'abbigliamento, chimica più 4%, farmaceutica più 7,7%, piatta anche l'elettronica meno 0,6%. Perché lo dico? Perché intanto il dato conferma un incremento che era già arrivato appunto anche dagli ordinativi, ma è poi interessante vedere come l'alimentare abbia fatto un balzo del 7% in una giornata in cui non è successo nulla di gravissimo, per carità. Però ci sono due notizie che obiettivamente ci hanno incuriosito. La prima è il blocco da parte cinese di tutti i formaggi cosiddetti arborinati in Cina, riguarda anche noi, perché blocca anche tutte le importazioni di gorgonzola e taleggio, per i francesi è Camembert e Roquefort. E dice vabbè, chi se ne... Beh, insomma, sono... l'anno scorso abbiamo venduto in Cina 15 tonnellate, 15.000 chili di gorgonzola, non è pochissimo, ma soprattutto il blocco non è un blocco che è destinato a essere tolto a breve. La Cina ha chiarito che non si tratta di un blocco politico, ma riguarda i parametri e i regolamenti. Tra l'altro l'ha detto il vice direttore Europa del Ministero del Commercio a margine del settimo congresso Slow Food International di fine mese a Chengdu. I parametri del 2010 sono molto bassi sulle muffe, sono applicati in modo flessibile, bisognerà ridefinire i parametri accertati in Cina sulle muffe. E vabbè. L'altra cosa interessante però è che il gruppo Associated British Foods, quotato alla borsa di Londra, ha annunciato l'accordo per acquisire Acetum S.p.A. Cos'è Acetum S.p.A.? Il principale produttore italiano di aceto balsamico di Modena, che è un successo incredibile in tutto il mondo anglosassone e non solo. Tra l'altro i marchi includono Mazzetti, Acetum e Fini, e poi ha realizzato vendite per 103 milioni di euro in 60 paesi. A questo punto però fa notare la Coldiretti che con questi tre marchi storici su quattro sono già in mani straniere per quello che riguarda l'intera produzione di aceto balsamico. E anche di questo parleremo tenendo assieme le due cose, ripeto, non stiamo parlando di cose enormi, ma visto che il dato, uno dei dati migliori è anche sulla produzione alimentare, cogliamo l'occasione per parlarne. Nel frattempo, mentre come emerso già ieri, l'Unione Europea sta preparando un'ipotesi di web tax, ce ne siamo occupati la settimana scorsa sui colossi che pagano poco, pochissimo, quasi niente di tasse nei paesi dove fatturano, perché dicono che vale la sede fiscale. Nel frattempo Google però oggi ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la maxi multa da 2 miliardi e 420 milioni di euro, che non c'entra nulla con la web tax, ma con l'abuso di posizione dominante, e Google oggi ha fatto ricorso. Per quello che riguarda invece un altro tema di cui parleremo ampiamente, anche se tutto avverrà nel tardo pomeriggio, è il tema Fincantieri e i francesi d'Estex, perché nel giorno in cui Fincantieri ha firmato un contratto molto importante con Silver Sea Crisis per circa 310 milioni di euro per realizzare una nuova nave da crociera ultralusso. Dicevo, si pensa che si possa arrivare a un accordo conclusivo sul tema di STX, perché c'è il famoso incontro anche con il ministro francese. E allora non avremo probabilmente in orario di programma ancora grandi notizie, grandi novità, ma sarà per via dell'orario, ma sarà l'occasione per stabilire qual è, diciamo, lo stato di avanzamento, se vi è uno stato di avanzamento nel tentativo di trovare un accordo, visto che il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire oggi è a Roma dopo lo strappo di luglio e la nazionalizzazione a sorpresa di STX da parte del presidente Macron. Incontrerà prima Piercarlo Padoan e poi il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. L'obiettivo è arrivare poi al vertice politico di Lione del 27 settembre tra Macron e Gentiloni con una proposta di accordo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve, partendo dalla borsa che oggi vede una giornata ben intonata. Sì, giustamente oltre al 349-238-6666 per SMS e WhatsApp c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta Facebook. Andiamo sulla borsa, come dicevo, perché parte bene la settimana: più 1,5% Piazza Affari, più 1,20 Parigi, più 1,30 Francoforte e per quello che riguarda il Dow Jones il rialzo dell'1%, Londra più 0,40%. Questo dovuto a vari fattori, per esempio, insomma, la Corea del Nord, molti citano il diradarsi delle tensioni, insomma, speriamo che sia così. Sono molto forti alcuni titoli, in particolare Unipol più 6,30%, Exor, la controllante del gruppo Fiat, più 4%, Fineco Bank più 3,5%, Saipem più 3,40%, UbiBank più 3,30%, UniCredit più 3% come BiperBanca e Unipol Sai, ma anche Generali. E mentre Prismian guadagna il 2,5% come il banco BPM. Di negativo non c'è praticamente nulla se non Leonardo, ex Finmeccanica, meno 0,30%. L'euro è sotto quota 1,20, ma nei confronti del dollaro, ma di poco, 1,19,84. Dicevo, delle notizie in breve oggi non c'è moltissimo. Vorrei far notare, è un periodo in cui escono sempre, in questo periodo, le classifiche internazionali sulle università, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Oggi è uscita quella del Financial Times che va a misurare la bontà, la classifica sui master in master più classici in economia. Tra l'altro, perché lo cito? Perché la Bocconi di Milano si è confermata nella top 10 dei migliori masters in finance, salendo al settimo posto, e questo grazie al programma Master of Science in International Management, corso di laurea biennale in inglese. E poi la valutazione della classifica è basata anche su quanto trovano lavoro, dove vengono piazzati, placement è un brutto termine in italiano, ma insomma i laureati, e anche le esperienze internazionali fatte durante il percorso di master. Tra l'altro, appunto, è risalita e non di poco nella classifica del Financial Times, mentre ricordo che la settimana scorsa in un'altra classifica, quella della rivista britannica Times Higher Education, che prendeva in considerazione tutte le università, c'erano solo due atenei italiani su 200, quindi Sant'Anna e Normale di Pisa, 155esima la Sant'Anna e 183esima la Normale. Al vertice si confermava il Regno Unito con Oxford e Cambridge in seconda posizione, poi Stati Uniti con California Institute of Technology, pari merito con Stanford. E invece un'altra classifica, quella arrivata, diciamo, a inizio giugno, il QS World University Rankings, vedeva quattro italiane tra le prime 200, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Scuola Normale di Pisa. Infine una dichiarazione resa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione della prima tappa del viaggio della Costituzione relativa all'EMA, ossia l'Agenzia Europea del Farmaco, su cui Milano molto sta puntando. Ha detto Sala: vedo che anche per il governo portare a casa EMA sarebbe qualcosa di importante, mi sembra che ci sia molta determinazione. La cosa che mi rassicura è che ogni incontro bilaterale serve per sottolineare la questione. Gentiloni, da questo punto di vista, è sicuramente sul pezzo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. No, rido perché qualcuno contesta come ho pronunciato gorgonzola. L'avrei pronunciato in maniera quasi cinese, gorgonzola. Gorgonzola, non è ancora gorgonzola. Sono d'accordo con voi. Però adesso andiamo a capire dopo quale sia il problema cinese con tutti i formaggi, come si chiamano in gergo, erborinati. Prima di tutto però, macroeconomia, dati sulla produzione industriale. Allora, dicevamo, ma voglio riepilogarli: meccanica industriale più 8% rispetto a un anno prima, alimentare più 7%, tessile abbigliamento meno 0,5%, elettronica meno 0,6%, bene, molto bene anche la farmaceutica più 7,7%, la chimica più 4%. Tant'è che la produzione industriale, la crescita della produzione industriale già acquisita per il 2017, è il solito discorso. Cioè, se non crescessimo più nei prossimi mesi, quanto sarebbe già cresciuta la produzione industriale? È del 9% per quello che riguarda la parte auto in primo luogo, quasi il 10% per la parte auto. È uno dei settori meglio messi nella crescita della produzione industriale. Commento su questo del Premier Gentiloni: dati impensabili solo 2 anni fa, paese in lenta ripresa, ma meno lenta di quanto non si pensasse. Un paese come il nostro, che è un paese finalmente in lenta ripresa, anzi anche un po' meno lenta di quanto si pensasse fino a qualche tempo fa. Ho visto stamani di nuovo dei dati della nostra produzione industriale più 4,4% su base annua, che sono dati che solo 1 o 2 anni fa avremmo considerato impossibili da raggiungere. Questo paese, che è in ripresa con tutte le difficoltà del caso, deve, se guarda al futuro, guardare innanzitutto alle scuole. Allora, così il Premier Gentiloni, d'accordo sulle scuole, però non voglio entrare in polemica subito a inizio settimana, cioè la retorica sulla scuola, ma non ce l'ho con Gentiloni, che anzi mi sembra che goda anche di un consenso superiore a ogni attesa qualche mese fa. Il problema è che sulla scuola c'è tanta di quella retorica in questo paese, poi sia sul fronte degli insegnanti che sul fronte anche del governo. Comunque, insomma, le scuole stanno riaprendo, domani ufficialmente in Lombardia, altre hanno già riaperto in altre regioni, ma andiamo avanti. Poi c'è anche il tema della sicurezza scolastica, anche lì molta retorica, però andiamo avanti con i dati, perché a questo punto con la produzione industriale, come commenta oggi il ministro Carlo Calenda in un tweet, con il dato di oggi sulla produzione industriale si conferma l'effetto che sta avendo il piano Industria 4.0, dimostrazione che il dirigismo in economia non serve, non funziona, fa sprecare soldi e fa costruire cattedrali nel deserto delle volte. Altra cosa è creare le condizioni di gioco affinché poi le imprese, piccole, medie e grandi, possano muoversi, e 4.0 con il superammortamento, ossia tu puoi dedurre il 140% degli investimenti fatti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari, e invece poi l'iperammortamento, ossia il 240% per l'acquisizione di beni strumentali acquistati per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale. Cioè, detta banalmente, l'iperammortamento si concentra soprattutto sulla parte digitale. Il superammortamento invece vale in generale per beni strumentali nuovi, impianti e macchinari. Mi sembra che stia dando i suoi effetti e il governo sta pensando anche a una proroga del superammortamento per consentire di effettuare l'ordine di acquisto fino al 31 dicembre 2018. Attualmente la scadenza è per l'acquisto al 30 giugno dell'anno prossimo. Dottoressa Stefania Tomasini, responsabile previsioni e analisi economiche per l'Italia di Prometeia, buonasera. Buonasera. Dunque, cerchiamo di tenere assieme tutti questi dati. Intanto partiamo da quello di oggi sulla produzione industriale. Qualcuno mi fa notare che c'è anche la legge Sabatini, giustissimo. Qual è la cosa che più la sorpresa del dato? Perché uno mi può dire, ma è luglio, ho capito, ma noi lo stiamo confrontando su luglio del 2016, dopodiché luglio non è agosto, non sto dicendo una banalità, ma non è un mese in cui si ferma di solito la produzione industriale, quindi il dato è comunque importante. Qual è la cosa che l'ha sorpresa di più del dato? Ma il dato forse più sorprendente è quello dell'energia, nel senso che quello 0,1 aggregato è in realtà ancora più buono se escludiamo l'energia, la produzione di energia elettrica e in genere di prodotti petroliferi, che sono caduti, e questo forse sorprende perché tenuto conto del clima molto caldo i condizionatori dovrebbero essere andati molto molto bene, quindi forse ci sorprese un po' quello, ma detto questo è certamente un dato ancora migliore, perché al netto dell'energia la crescita sul mese precedente, che già aveva registrato una crescita molto forte, 1,1 e 0,6, quindi è decisamente un segnale positivo di tenuta della ripresa, che appunto, per quanto ci continuiamo ovviamente a, come dire, a cautelare, a dire che è insufficiente, molto modesta ancora, insufficiente, però sicuramente avviata. E l'altro aspetto molto positivo che leggiamo in questi dati è che si è sempre più diffusa. Noi calcoliamo questo indice di diffusione che diciamo è sostanzialmente vicino a 100, che sta a dire che tutti i settori sono in crescita. Stanno contribuendo. Esatto, quando c'è effettivamente una ripresa, come dire, genuina che si diffonde. Fino a qualche mese fa questo indicatore era ancora molto basso, perché sapevamo che c'erano alcuni settori che stavano andando bene ma altri facevano ancora molta fatica, in particolare il settore dell'automotive che ha trainato questa fase di ripresa, ma altri ancora negativi. Bene, i dati più recenti ci mostrano che invece la ripresa si sta diffondendo, e questo mi sembra, anche al di là del dato aggregato, uno degli elementi più interessanti, ecco, perché appunto testimonia del fatto che forse si sta un po' consolidando questo clima migliorato. Allora, da questo punto di vista, per aggiungere e integrare quanto lei diceva, noi abbiamo visto in questi anni che tutti i settori molto export oriented, come dicono in gergo, come si dice in gergo, e quindi l'alimentare in tutte le sue varie componenti, ma non solo, anche la meccanica industriale, andavano bene, benino, bene. Però poi c'erano interi settori fermi, quelli in cui l'export incideva di meno o comunque che non erano riusciti ad agganciare la dinamica dell'export. Dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire da lei che cosa ha determinato non solo l'intensità di questo recupero, perché ricordo che fa il paio con un dato sul PIL italiano che, per quanto insufficiente, si sta invece stavolta avvicinando alla media europea che quest'anno dovrebbe essere 1,8-1,9%, se noi dovessimo fare 1,5 come ormai abbastanza scontato invece dello 0,8, beh, lo 0,8 rispetto all'1,8 era bello distante, meno della metà, l'1,5 rispetto all'1,8 non ci vuole un genio per capire che ti stai avvicinando alla media dei paesi europei. Però vorrei capire che cosa ha determinato questa diffusione, oltre che strutturarsi del dato, e che cosa invece manca ancora all'appello per avere, diciamo, una produzione industriale veramente diffusa e quindi una crescita complessiva che non sia solo a macchia di leopardo. La risposta dopo il meteo e la pubblicità, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Soy el fuego que... minuti, di nuovo in diretta. Allora, dottoressa, che cosa ha determinato secondo lei il fatto che nel dato sulla produzione industriale, ma dati che ormai iniziamo a vedere da un po' di mesi, la crescita si stia estendendo a molti settori, non ci siano più alcuni legati, molto legati all'export che vanno bene, altri più al palo? C'è chi cita, per esempio, il ministro Calenda, lo ricordavamo prima, superammortamento e iperammortamento per industria 4.0, per esempio. Certamente questi incentivi, probabilmente i dati non sono ancora disponibili, però stanno avendo effetto, anche se forse ci aspettiamo di più una, come dire, un'accelerazione della domanda di questi beni verso la fine dell'anno. Quello che è cambiato rispetto alla fase iniziale della ripresa, tutta trainata dall'export, è stata l'arrivo della domanda interna che certamente ha tratto beneficio dalle politiche fiscali che sono divenute via via meno restrittive, comunque che hanno supportato il reddito disponibile delle famiglie e con esso ovviamente anche la domanda di beni di consumo, che quindi hanno favorito le imprese che lavorano per anche la domanda interna, i consumi, non solo per le esportazioni. Questo sì, devo dire, anche se la Confcommercio, abbiamo avuto ospite Mariano Bella, direttore del Centro Studi, la settimana scorsa, non vede ancora molto chiaroscuro, non vede una ripresa dei consumi stabile e così significativa. Però lei dice... Il fatto che siano... I consumi stanno assumendo anche delle forme forse che non sono solo il commercio tradizionale, quindi i consumi sono forse la componente invece che quest'anno ha sorpreso di più e che anche ci ha fatto sbagliare le previsioni, perché certamente la domanda internazionale è più forte di quella che si poteva immaginare fino a qualche mese fa, e quindi questo ha favorito le esportazioni, ma questo è un dato un po' di tutta Europa, sono i consumi delle famiglie che stanno crescendo e che si stanno irrobustendo, a testimonianza proprio di come anche il clima di fiducia si stia diffondendo in misura maggiore, in senso positivo, e quindi stia sostenendo la domanda di consumo delle famiglie. Ripeto, che non è solo appunto forse quella che si vede sul commercio, ma sono i servizi, sono il turismo, per esempio, le indicazioni che si hanno sono di una crescita, lo vediamo anche dai prezzi, ad esempio. Molto molto buona, ecco. Quindi senta, dottoressa, qual è il settore che manca vistosamente all'appello? Io tento di fare un'ipotesi. A mio avviso il settore delle costruzioni, ancora inteso come edilizia, però magari lei ne citerà un altro ancora più pregnante. No, il settore delle costruzioni è certamente settore che ancora non mostra segnali costanti, si alternano segnali positivi ad altri meno positivi di ripresa. Su questo purtroppo le prospettive non sono molto rosee, proprio perché l'eccesso, diciamo, di investimenti che aveva caratterizzato gli anni pre-crisi deve ancora essere smaltito, diciamo così, e quindi abbiamo ancora... Beh, non c'è neanche una grande mole di investimenti pubblici nelle costruzioni, no? E non ci sono, questo per la parte infrastrutturale, privato, certo. Lo vediamo ancora nei prezzi che sono ancora molto molto bassi, e questo testimonia il fatto che benché le compravendite siano aumentate, ci sia un po' di ripresa, però diciamo forse abbiamo toccato il fondo. Volevo fare una domanda sulle vostre previsioni, per esempio, che il Fondo Monetario stima per quest'anno 1,3, Banca d'Italia 1,4, Istat 1,5, voi avete stimato un 1,4%, parlo del PIL, mi scusi, ma visto che la crescita acquisita è già dell'1,2%, cioè se non crescessimo nel terzo e quarto trimestre faremo comunque 1-2. Sì. Non è un po' prudente 1-4? Cioè, o vi aspettate che terzo e quarto trimestre diano qualche segnale di rallentamento? No, noi ci aspettiamo una buona crescita nel terzo, in linea con quella dei primi due trimestri, e un piccolo rallentamento nel quarto, anche perché continuiamo a scontare l'idea che all'avvicinarsi delle elezioni italiane ci possa essere una qualche maggiore cautela degli operatori, degli investitori e anche dei consumatori. Questa è una così, ipotesi che continuiamo a ritenere abbastanza verosimile, quindi con un po' di rallentamento 1,4 ci sembra una stima prudente, però 1,5 è assolutamente alla portata, chiaramente. Non è il decimo quello che adesso forse sposta. Però l'aspetto più importante, appunto, è uno, registrare appunto questo consolidamento nelle aspettative, che è la cosa più importante, anche perché è quello che può effettivamente consentire una ripresa degli investimenti, visto che non dobbiamo dimenticare che siamo tutti contenti, ma continuiamo ad avere il 20% di produzione industriale in meno. E qui volevo arrivare. Il reddito medio delle famiglie italiane è tornato ai livelli dei primi anni 90, e quindi, insomma, di strada da fare ce n'è ancora tanto. No, ma mi fa piacere che lo ricordi. Bisogna investire, e per investire chiaramente le imprese devono giustamente avere prospettive di crescita, un clima di fiducia positivo, devono avere un clima di fiducia anche che conta, come dire, certezza delle regole, continuità. Certo. Ecco, e questi sono fattori importanti che specialmente per l'economia italiana... Infatti sarà fondamentale vedere in fase di legge di stabilità, per esempio, la proroga dell'iperammortamento, oppure le decisioni che il governo sembra voler prendere sui neoassunti, vediamo se 29 o 32 anni, la decontribuzione per 3 anni, perché è chiaro che se tu inizi a dare un'ottica e una prospettiva di 3 anni, uno può fare anche un ragionamento. Certo. Mi ha fatto piacere invece che lei citasse una produzione industriale ancora sotto di un 20% rispetto al pre-crisi, e un potere d'acquisto che è tornato a inizio anni 2000, perché questo 90, la disoccupazione che è tornata, volevo dire, ricordiamoci, la disoccupazione che è ancora all'11%, sì. Perché uno può commentare una crescita dell'economia più forte delle attese senza negare che di strada da fare ce n'è ancora tantissima. È come se tu fossi scivolato, diciamo, mentre sali una cima e stai recuperando il terreno che hai perso. Aumentare la velocità del recupero non vuol dire che sei arrivato al recupero completo, che sei arrivato al pre-crisi. Infatti nessuno di questi dati ci porta al pre-crisi ancora, no, e ci manca. Però lo dico agli ascoltatori, perché vedo già alcuni che mi scrivono al 349-238-6666, ecco, siete ridicoli, questa cosa... chissà come aumenteranno i dati positivi più si va verso le elezioni. Guardate, siccome si va a elezioni a marzo-aprile, ma inizia la scuola in questi giorni, nelle varie regioni italiane, quasi un anno scolastico. Non è che possiamo farlo adesso che ogni volta che c'è un dato positivo è un dato per filo governativo per le elezioni, ogni volta che c'è un dato negativo, ecco che vede, hanno ragione l'opposizione. Non si va avanti così. Speriamo che tutti i dati siano in miglioramento, tutti, a partire da quello sull'occupazione, disoccupazione, PIL, produzione industriale, acquisto di beni durevoli, ordinativi, vendita al dettaglio, e poi uno voterà quello che vuol votare, voterà PD, 5 Stelle, i fuoriusciti del PD, la Lega, Forza Italia, tutti i partiti, però non si può sperare che le cose vadano peggio solo perché tu non vuoi votare, perché pensi che un miglioramento dei dati economici vada a vantaggiare il governo. Questo non è un ragionamento, e vi invito a non farlo da qua, diciamo, ad aprile, poi lo farete uguale, ma almeno l'appello l'ho fatto. Grazie alla responsabile previsione e analisi economiche per l'Italia di Prometeia, Stefania Tomasini. E a proposito di prospettive, non tanto sulla produzione industriale a breve, ma sullo scenario, sulla strategia di un colosso italiano come Fincantieri, che oggi tra l'altro festeggia anche un accordo da 310 milioni di euro per produrre per Silver Sea Cruises una nave da crociera ultra lusso. Oggi c'è il molto atteso incontro tra il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire a Roma, e incontrerà prima il ministro Padoan e poi il ministro Calenda. Dopo lo strappo di luglio in cui Macron, facendo obiettivamente un'operazione molto molto discutibile quantomeno sugli impegni presi dal suo predecessore, ha nazionalizzato a sorpresa i cantieri francesi di STX, l'abbiamo spiegato molte volte, Fincantieri molto più grande dei francesi, però i francesi hanno un fatturato intorno al miliardo di euro, Fincantieri ha un fatturato che vale 8 volte, pensate che solo nel primo semestre ha fatto 4 miliardi di ordini e ricavi in crescita a 2 miliardi e 300 milioni di euro. Diciamo il 2016 si è chiuso con 4,4 miliardi, quindi vale almeno 4 volte i francesi. Però a Saint-Nazaire c'è questo bacino di carenaggio lungo quasi un chilometro dove costruire mega navi da crociera, a Monfalcone il limite è 180.000, lo diciamo ogni volta, invece lì è 220.000. I francesi sono preoccupati perché a Saint-Nazaire si fanno anche i sottomarini, c'è cioè tutta la parte di difesa, e perché STX costruisce navi militari, porta elicotteri d'assalto e anche i sottomarini nucleari. Vorrei capire che cosa metteranno oggi sul tavolo i francesi, perché se ho ben capito la loro ipotesi di dire no, non limitiamoci l'accordo Fincantieri STX, rilanciamo un accordo ancora più grande dove ci possa essere all'interno anche quello fra Fincantieri e STX. Celestina Dominelli, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Cosa metteranno oggi sul tavolo il ministro Le Maire soprattutto, e che cos'è questa idea dell'Airbus dei mari? Allora, la risposta a questa domanda si può rispondere, diciamo, raccogliendo un po' gli indizi che sono stati sparsi in queste settimane e da Le Maire e di recente anche dal ministro della difesa francese Florence Parly, che ha sostanzialmente anticipato, diciamo, i contenuti di quella che è la nuova proposta, insomma, che i francesi porteranno oggi al tavolo dell'incontro con Padoan e Calenda, ovvero un'alleanza estesa anche al militare, che quindi mette insieme non più soltanto STX France, che come ricordavi giustamente tu è un formidabile presidio e nella parte civile ma anche e soprattutto nella difesa transalpina, ma che tira dentro anche Naval Group, l'ex DCNS, che è questa l'azienda statale appunto della difesa, insomma, francese, che sostanzialmente verrebbe in qualche modo coinvolta in questa nuova possibile proposta che i francesi porteranno oggi all'incontro per tentare di superare l'impasse che si è registrata in queste settimane. Ed è sostanzialmente, come dire, in qualche modo un inizio, diciamo, di quel consolidamento europeo, di quel Airbus dei mari a cui accennavi tu, che è da sempre un tema molto caro alla Didi Fincantieri Giuseppe Bono, che quindi dovrebbe, diciamo, in qualche modo trovare una prima spinta se Italia e Francia riusciranno a raggiungere un accordo sulla base appunto di quelle che sono un po' le indicazioni che Parigi ha dato in queste settimane, che quindi dovrebbe oggi sottoporre appunto ai due ministri italiani. Allora, dopo il traffico, vediamo di capire anche in che cosa potrebbe consistere il riferimento Airbus. Airbus è chiaro, lì l'accordo fu Francia-Germania, l'Italia non entrò, la loro meccanica non volete entrare perché si voleva tenere le mani libere per produrre anche per la Boeing, è una lunga storia, però insomma è stato un caso di successo in cui due paesi europei attraverso loro controllate hanno fatto concorrenza vera, e in alcuni casi, in molti casi l'hanno anche vinta, a quelli che sembravano gli imbattibili colossi dell'aviazione civile in questo caso, e quindi Boeing, Lockheed e McDonnell Douglas, per citare i vecchi nomi. Dopo il traffico vorrei capire in che cosa si concretizzerebbe questa Airbus dei mari, e chi deciderebbe, nel senso, perché la governance lì è tutto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, l'Airbus dei mari, che come tu ricordavi è benvenuta e anche caldeggiata dall'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, ma anche dal numero uno di Naval Group, vedrebbe questi due soggetti come soggetti industriali. Fincantieri sappiamo cos'è. Naval Group invece, e quali sarebbero le quote, cioè chi deciderebbe, come verrebbe gestita la governance? Allora, Naval Group sono sostanzialmente i cantieri militari francesi, è un'azienda che il cui 65% è controllata direttamente dallo Stato, il restante 35% da un'altra azienda francese, Thales. Quindi di fatto la proposta attorno alla quale sembrerebbe esserci in qualche modo, c'è stato in qualche modo un confronto ovviamente sotto traccia in queste settimane, è quello di mettere insieme le due aziende, le due industrie in quella che è appunto la loro forte specializzazione, cioè il naviglio di superficie, perché come hanno giustamente osservato molti analisti del settore, è più difficile ipotizzare che questa alleanza si estenda alla parte del sommergibile, dove invece comunque la Francia ha un atteggiamento molto più protezionista. Va detto anche che la Francia ha sommergibili nucleari. Esatto, e quindi, chiaramente che non potrebbero comunque in qualche modo essere legati a questa partita. Quindi di fatto l'alleanza avrebbe sostanzialmente a che fare, sarebbe estesa a tutte le tipologie di navi militari, partendo da che cosa? Partendo da quello che in effetti i francesi e gli italiani hanno già fatto lavorando congiuntamente, perché ricordiamo, su due diversi programmi, Caccia Torpediniere Orizzonte, ma soprattutto le fregate FREMM, l'asse Roma-Parigi ha già dimostrato di essere molto molto efficace. Quello che però va aggiunto è che in questi due programmi sostanzialmente si agisce sulla base di una piattaforma comune che però poi i due paesi hanno sviluppato separatamente, e rispetto soprattutto al discorso delle fregate va detto che ultimamente l'Italia, Fincantieri, qualche delusione l'ha data ai francesi, perché in alcune gare recentissime, ricordiamo una su tutte, quella lanciata dal Qatar appunto per un nuovo programma di fregate, ebbene il modello italiano delle FREMM si è affermato ed è riuscito ad aggiudicarsi quella maxi commessa battendo proprio i francesi, tra gli altri i francesi di Naval Group. Quindi segno che in qualche modo questa proposta di alleanza estesa anche al militare chiaramente sarebbe... Ecco, l'ultima cosa che vorrei capire, Celestina, però questa è il modo per arrivare a un punto di caduta, a un punto di accordo, mettendo assieme la parte di cantieristica militare di superficie, quindi fuori esclusi i sommergibili e nucleari. Ma la parte civile invece? Allora, la parte civile chiaramente dovrebbe, è difficile in questo momento è tutto molto oggetto di discussione. L'idea sarebbe quella, come peraltro si evinceva dall'ultimo comunicato che fu diffuso alla fine dell'ultima riunione ministeriale, quando appunto l'EMER era a Roma con Padoan Calenda, quindi parliamo del mese d'agosto. Quello che si intuisce è che sostanzialmente l'idea sarebbe di andare verso una combinazione a tre, cioè mettendo insieme appunto Fincantieri, Naval Group, ma anche Stetix France. Quindi si tratta appunto di capire come costruire questo raggruppamento. C'è chi dice appunto che un percorso razionale potrebbe essere quello di partire appunto integrando le due aziende che già lavorano su programmi congiunti, quindi Naval Group da un lato e Fincantieri, immaginando poi un secondo momento in cui conferire a questo raggruppamento anche Stetix France, che appunto poi ha una doppia anima, civile e militare, come ricordavi appunto bene tu all'inizio della trasmissione. Ovviamente qual è il tema? Ci sono posizioni comunque diverse, perché da un lato i francesi sono partiti proponendo uno schema paritetico quando si parlava soltanto di Stetix France, e qualcuno dice che probabilmente torneranno a proporre un 50-50 anche se il perimetro è allargato a militare. Dall'altra parte ci sono appunto i ministri Padoan e Calenda che sulla questione della uguale peso hanno fatto capire che gli italiani non sarebbero disponibili. Tutto sta però a comprendere se effettivamente rispetto a una situazione e a un perimetro comunque decisamente più ampio rimarranno rigidi sulle loro posizioni, o invece se non si troverà un qualche compromesso che sostanzialmente poi porta a vantaggi a tutti, perché come ricordavi tu esiste già una Airbus civile, sarebbe appunto... No, ma poi la competizione nel settore navale sia civile che militare si fa con i numeri e le dimensioni, per cui però ho capito il tuo ragionamento, il governo italiano ha detto no a 50-50 dopo gli accordi presi in cui noi avremmo avuto la maggioranza e il controllo dei cantieri francesi. Avete cambiato le carte in tavola. Adesso vediamo, perché se il perimetro non è più Estex con Fincantieri, ma c'è dentro anche Naval Group. Vediamo quale potrebbe essere la posizione del governo italiano. Grazie intanto a Celestina Dominelli. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul GR24, poi la borsa e il nostro settore alimentare. Afectuoso para nuestro amigo Pino Insegno y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Insegno, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Insegno y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! State ascoltando un programma offerto da... JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e poi queste due notizie sul settore alimentare italiano. A chi continua a scrivermi su la vicenda Fincantieri e Stex, l'incontro appunto tra Padoan e il suo omologo francese Le Maire oggi, poi il ministro Calenda, vedremo cosa uscirà. Insomma, il contorno, il tentativo è quello di alzare la posta in gioco da parte francese, dire non limitiamoci all'accordo STX Fincantieri, andiamo oltre tutta la parte militare e civile, creiamo un colosso europeo della cantieristica sia civile che militare. La borsa, nel frattempo, dicevamo, buona la giornata oggi, non ci sono timori nordcoreani, non che questo voglia dire che il problema non ci sia più, non ci sono timori usati delle volte anche come scusa per vendere. Più 1,64% Milano, devo dire più 1,24% Parigi, più 1,40% Francoforte, più debole Londra, più 0,4%, il Dow Jones più 1%, euro sempre vicino a quota 1,20, siamo a 1,19,60. Tra i titoli spicca in particolar modo Unipol più 6,70% e poi Exor più 4,20, Fineco Bank più 3,70, UbiBank più 3,5, Saipem più 3,30, Unipolsai più 3, come generali, Biper più 2,90, Prismian più 2,80, Banco BPM più 2,70, come Unicredit e Azimut il 2,60, lo guadagna generali, il 2,40, Yux Net-a-Porter. Di negativo c'è praticamente nulla, Tenaris invariata, Leonardo invariata, Italgas più 0,30 come Eni. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Bene oggi gli assicurativi, penso a Unipol ma anche generali più 3,14% bene anche i bancari e Saipem. Dopodiché commentiamo anche Fincantieri, visto che abbiamo appena ragionato con la collega Celestina Dominelli dell'ipotesi su cui si sta muovendo il governo francese. Ciao. Sì, è un lunedì decisamente positivo per le borse. Milano chiude ai massimi da 22 mesi, le borse avevano aperto molto bene, poi è arrivata anche l'apertura sostenuta di Wall Street, che ora guadagna l'1%, per Wall Street è una performance decisamente rilevante. E come dicevi tu, assicurativi premiati, perché i danni dell'uragano Irma, seppur ingenti, sono inferiori a quelle che erano le stime che erano un po' circolate, e ovviamente in questo caso ne beneficiano sia i titoli assicurativi sia i titoli dei cosiddetti riassicuratori. Per questo Unipol vola, Piazza Affari guadagna il 6,7%, ma anche generali ha un rialzo superiore al 3%. Per quanto riguarda Unipol c'è anche un report positivo da parte di Mediobanca. In questo caso, come per altre situazioni, si evidenzia il fatto che il possibile accorciamento della catena di Unipol e Unipolsai possa far emergere del valore in capo a Unipol, e di qui il titolo ha recuperato, come dicevo, quasi il 7%. Per quanto riguarda Saipem, c'è un mercato che comincia a vedere il titolo con modo più favorevole rispetto al passato, si guarda più alla generazione di cassa. Anche in questo caso c'è un report positivo della banca anglo-britannica HSBC, che consiglia di acquistare il titolo. Sicuramente questo giudizio ha influito sulla performance in borsa di oggi. Per quanto riguarda infine Fincantieri, che chiude con un rialzo del 4,8%, qui c'è una commessa da 310 milioni di euro che è stata annunciata proprio questa mattina per la compagnia monegasca Silver Sea per realizzare una nuova nave ultralusso, e sicuramente in questo caso ha favorito, diciamo, la performance del titolo. E questo per quello che riguarda lo scenario complessivo. Vediamo oggi un po' più di debolezza in una giornata comunque tutta positiva, sia per il settore utilities, mi riferisco a 2A più 0,40, sono sempre positive, ma anche per titoli moda. Qui c'è stato un caso, e mi riferisco a Prada, alla borsa di Hong Kong. Sì, perché Prada, come ormai da diversi semestri, ha evidenziato dei conti diciamo in cui gli utili calano, i margini calano. In questo caso c'è stato un calo dell'utile netto del 18% a 115 milioni. Oggi in borsa Hong Kong Prada ha chiuso in ribasso del 14%, sicuramente un tonfo di cui hanno risentito a Milano, chiudendo comunque in positivi alcuni dei principali titoli del settore della moda. Per quanto riguarda le utility, venivano da giornate comunque di rialzi, A2A comunque vicina ai massimi da 6 anni, la stessa Italgas è vicina ai massimi storici, oggi sono cresciute meno del mercato. Ancora per quello che riguarda titoli migliori e peggiori oggi della seduta, Novare più 20%, Fedon più 15,90%, Clabo più 14%, I Grandi Viaggi più 8,40%, Sogefi più 7,60%. Fronte opposto, Expert System meno 6,40%, Ceramiche Ricchetti meno 4,90%, Caleido Group meno 4,50%, Telesia meno 4,30%. Per quello che riguarda Saipem, ha detto già, insomma, del report HSBC sul lusso, attenzione, perché il Prada ha avuto uno scivolone pesante in borsa a Hong Kong, ma Luxottica ha fatto più 0,80%, Ferragamo più 1,14%, percento, e Moncler più 1,20%, quindi sembra soprattutto confinato appunto ai conti semestrali resi noti venerdì a mercati chiusi. Titolo Hong Kong, titolo Prada Hong Kong è arrivato a perdere anche il 14% e paga sia super euro che anche tensioni geopolitiche. Nel ringraziare Ceo Condi nella Radio Corriere sulle 24 ore, andiamo sul traffico e poi ci occupiamo di due notizie che, insomma, sono due notizie non enormi, e mi riferisco a quanto sta succedendo in Cina con tutti i formaggi di importazione europea arborinati. Da noi riguarda Taleggio e Gorgonzola, per i francesi Camembert e Roquefort, ma anche per l'ennesima acquisizione, questa volta britannica, non francese, di marchi italiani nel settore alimentare, aceto balsamico in questo caso. Non è un'acquisizione da poco, viste le dimensioni dei vari concorrenti nel settore, perché stiamo parlando nel settore, visto che stiamo parlando di 110 milioni di fatturato, per quello che è stato l'acquisto da parte di British Foods per Acetum, è leader nell'aceto balsamico IGP, ha i marchi Mazzetti, Acetum e Fini, ha avuto ricavi, vendite per 103 milioni in oltre 60 paesi. E si lamenta la Coldiretti, per esempio, che 3 marchi storici del Made in Italy alimentare su 4 sono già in mani straniere. Ne parliamo dopo il traffico. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta Focus Economia. Allora, partiamo dal primo dato, questo blocco cinese alle importazioni di tutti i formaggi cosiddetti arborinati, quelli insomma che hanno, non devo spiegare cos'è un arborinato, adesso non può, ma vale per Gorgonzola e Taleggio Nostro, sono i formaggi con muffe soprattutto, e per i francesi Camembert e Roquefort. Non c'è un problema politico, ma di regolamenti, se ho ben capito. È il problema del tetto messo nel 2010 dalla Cina all'importazione di questi formaggi, utilizzato in maniera un po' flessibile dai vari produttori. Però, tra le contromosse allo studio ci sarà un seminario sui formaggi con muffe da tenere quanto prima, mentre anche l'Unione Europea scenderà in campo, dato che la lettura restrittiva dei regolamenti rischia di colpire non solo Italia e Francia, ma anche Gran Bretagna, Danimarca e Olanda. Per quello che ci riguarda, si stima che verranno bloccati almeno 15.000 kg di gorgonzola, perché questo è stato il consumo cinese nel 2016. La Coldiretti fa notare che il Made in Italy a tavola in Cina ha avuto un balzo l'anno scorso del 17% quanto a valore delle esportazioni. E anche il vino sta andando meglio del passato, anche se c'è molta strada da fare, 100 milioni di euro. Poi il concentrato italiano di pomodoro vale 63 milioni di euro in Cina. Ma vorrei parlarne con chi rappresenta il mondo dell'agroalimentare italiano, ossia il presidente di Federalimentare, che raggruppa 7.000 imprese del settore, Luigi Scordamaglia. Buonasera e benvenuto di nuovo a questo programma. Buonasera a voi. Buonasera. Poi arriviamo alle acquisizioni, diciamo, inglesi, in questo caso britanniche, capire se è un problema o è un'opportunità, oppure se non aggreghi vari produttori sarà inesorabile vederne di altre. Però che idea si è fatta della posizione cinese? Veramente, come dicono loro, vogliono capire quanto stiamo giocando sui regolamenti e vogliono stendere nuovi parametri, o perché sa, qua gli ascoltatori mi stanno scrivendo di tutto, ma come, allora i cinesi che vengono a darci lezioni su formaggi con la muffa, andiamo a boicottare i ristoranti cinesi? Non mi sembra questo il punto, non mi sembra però, devo dirla tutta, che la Cina sia un paese, col massimo rispetto, che possa dare lezioni all'Europa e all'Italia sulla sicurezza alimentare. Detto questo, Scordamaglia, è preoccupato o si tratta solo, diciamo, di una parte tecnica, capire meglio come adottare i nuovi regolamenti? Beh, no, è giusto essere preoccupati, soprattutto perché i formaggi italiani in Cina soltanto nel primo semestre di quest'anno del 2017 hanno avuto un aumento dell'esportazione del più 34%, quindi un prodotto che ha un mercato straordinario. Ed è limitativo dire si tratta solo di un problema tecnico, come in tutti i casi. C'è un utilizzo politico del problema tecnico, nel senso che è una barriera non tariffaria, quindi una barriera basata su normative cinesi che però esistevano prima e non hanno mai avuto alcun problema per quanto riguarda i nostri formaggi, di fermare l'esportazione dei nostri formaggi, che da questo momento la Cina ha deciso in maniera più o meno strumentale di utilizzare. Quindi questo io direi che sottolinea ancora di più l'importanza di fare a livello internazionale degli accordi bilaterali completi, come quello che abbiamo fatto col Canada, come quello che stavamo per fare e colpevolmente non abbiamo fatto con gli Stati Uniti, in cui barriere tariffarie e non tariffarie vengono messe insieme, perché in questo caso è chiaro, c'è una normativa che stabilisce quali tipi di fermenti, di lieviti, di muffe sono ammesse, però è facile utilizzarli strumentalmente per dire da domani, visto che ne stai esportando un po' troppo, ti faccio il 100% dei controlli e stabilisco che non è coerente con la mia normativa. Quindi l'invito è, in un mondo in cui fortunatamente il commercio globale sta riprendendo, perché siamo tornati a dei livelli di crescita finalmente in inversione di tendenza rispetto al passato, fare degli accordi che stabiliscono le barriere non tariffarie, che stabiliscono regole uniche tra i due mercati che scambiano prodotti, è sempre più fondamentale. Quindi bisogna avere non timore di fare gli accordi bilaterali mondiali, ma anzi incentivarli sempre di più, proprio per evitare questo fenomeno a cui stiamo assistendo. Ecco, a questo proposito, poi arriviamo a quanto è successo invece nella zona di Modena. In apertura del programma abbiamo commentato con la responsabile del Centro Studi di Prometeia i dati di oggi sulla produzione industriale, che vede, oltre alla meccanica industriale, al settore energetico, anche un grosso contributo del settore alimentare, quasi più 7% la produzione a luglio rispetto a luglio 2017. 2016. Che cos'è che ha, nel caso specifico del comparto alimentare, Scaldamagna, che ha trainato questo dato? Un aumento ulteriore dell'export o un tentativo di ripartenza anche dei consumi interni? Direi entrambi più un terzo fattore. Allora, per quanto riguarda l'export è sicuramente il fatto trainante, visto che abbiamo avuto nel primo semestre di quest'anno un più 7,2% di incremento dell'export agroalimentare, quindi un ulteriore record rispetto a quanto si stava facendo, quindi più export più produzione. Sui consumi interni devo dire che soprattutto per determinate merceologie di prodotto un'estate particolarmente calda, penso soprattutto alla birra, penso soprattutto al comparto dei derivati della frutta, quindi per tutta una serie di prodotti la temperatura elevata ha ulteriormente incrementato i consumi interni. Devo dire che però strutturalmente i consumi interni devono ancora recuperare quel gap a cui abbiamo assistito negli scorsi anni, mentre l'export va benissimo, i consumi interni devono aumentare in maniera ancora più strutturata. Per il resto è chiaro che avere una produzione che fa più 2,2% sul semestre, quindi incrementata non solo in luglio, dove c'è questo fattore contingente, ma lungo tutto il semestre, conferma che l'alimentare è ancora una volta un po' la punta di diamante e ha recuperato ampiamente tutta la perdita di produzione degli anni della crisi. Veniamo alle acquisizioni invece, Scaldamagna, perché allora intanto io l'ho scoperto oggi documentandomi su questa operazione appunto di acquisizione da parte di British Foods, che è il gruppo britannico, per esempio Associated British Foods si chiama, ABF, che tra l'altro ha il colosso inglese del tè Twinings, per cui non è un gruppo da poco. Ha comprato Acetum S.p.A., principale produttore italiano di aceto balsamico di Modena. Allora, l'aceto balsamico di Modena è il prodotto italiano più esportato al mondo, non come valore ma come percentuale. Il 92% dell'aceto balsamico se ne va all'estero. Vale comunque 1 miliardo di euro l'intera produzione e consumo. Ora, già ho visto molte proteste su questo, anche perché i marchi Acetum includono appunto Mazzetti, Acetum e Fini, e poi produce le famose glasse balsamiche, aceto di vino, di mela, vabbè. Vale 103 milioni di euro come vendita in 60 paesi. Però se allargo l'orizzonte noto che secondo un rapporto pubblicato poco fa il 75% dei marchi del cibo made in Italy sono in mani straniere. Ricordo nelle mani dei giapponesi di Asahi il birrificio Peroni, lo scorso anno le gelaterie torinesi Grom, la multinazionale Unilever, nel 2014 il pastificio Garofalo, che vede entrare il socio Ebru Foods, quotato alla borsa di Madrid, addirittura il gruppo toscano Salov, che è proprietario dei marchi Sagre e Filippo Berio, è passato nel gruppo cinese Yimin, insomma, e i marchi Bertolli, Carapelli e Sasso sono nel fondo statunitense Capital Partners. Allora, siete preoccupati, questo è un tema che abbiamo affrontato, riaffronteremo, siete preoccupati oppure... uno dice, vabbè, ma se non c'è nessun soggetto italiano, prendiamo il caso dell'aceto balsamico, se sono tutti troppo piccoli per fare acquisizione di altri, è inevitabile che qualcuno venga a comprare i marchi a maggiore penetrazione sui mercati internazionali, un po' come è avvenuto per la moda, mutatis mutandis. Io direi che c'è un dato di fatto. Il dato di fatto è che il valore aggiunto del made in Italy alimentare è quello di essere prodotto in Italia. In questo caso in particolare parliamo molto spesso di prodotti IGP, dove l'utilizzo della denominazione coincide con la possibilità di farlo solo in Italia, quindi l'arrivo di capitale che capitalizza l'azienda, che la fa crescere, che apre nuovi mercati a livello di commercio globale, ma che non trasferisce la produzione, perché in nessuno degli esempi che lei ha fatto qualcuno è così matto da comprare un marchio italiano per poi andare a produrre fuori, cioè il valore aggiunto della produzione dell'agroalimentare italiano e farlo in questo paese, farlo con nel caso degli IGP ovviamente un vincolo che lega lo stesso utilizzo della denominazione del prodotto, in altri casi è la capacità e la sapienza, è quello che ci si costruisce intorno, quindi noi abbiamo il dovere come imprenditori, ovviamente come settore italiano, di aprirsi ai capitali, di crescere, di farlo possibilmente con un azionariato italiano, ma non vedo come il terrore assoluto, quello in cui investimenti di carattere finanziario o distributivo, i nostri grandi marchi che hanno, ripeto, il loro valore aggiunto proprio dall'essere fatto in Italia, non deve rappresentare una cosa negativa in assoluto. Grazie, grazie anche al presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia. Allora, qualcuno mi dice che mi ricorda che non ho dato l'andamento di Wall Street, ve lo do subito per carità, e non ho ricordato l'euro, mi sembrava di sì. Comunque, Wall Street più 1,1% rafforza in questo momento, euro a quota 1,1962 nei confronti del dollaro. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.